Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Nove 32 minuti di questo 6 aprile, mercoledì. Buongiorno a tutti voi, siete all'ascolto della nostra rassegna stampa. E naturalmente cominciamo con gli orrori che man mano vengono scoperti, naturalmente riportano in primo piano quello che è una guerra, che non è un falò visto da lontano, tanto per citare un noto film, ma è un rogo, una pira in cui ci sei dentro e che, come dice il Papa giustamente, nessuno è innocente. E allora la guerra in Europa, le denunce e le stragi è il titolo, uno dei tanti titoli che ci sono questa mattina, naturalmente sui giornali campeggiano questi a caratteri cubitali, stragi, torture, dice il Corriere della Sera, orrore senza fine. Il nome questa volta non è più Bucha ma è Borodianka, cercano le fosse comuni, peggio di Bucha. Il paese occupato all'inizio dell'offensiva, 200 morti tra le macerie e segni delle torture. E naturalmente uno può anche, tra virgolette, si fa per dire, consolarsi che sono vittime civili durante terribili battaglie da una parte e dall'altra scoppiate in questi villaggi tra una presa e una ricontesa. Invece c'è anche gli omicidi a freddo, che forse se possibile fanno anche più male. Veronica, le chat di chi fuggiva hanno sparato a 4 bambini. E questo è quello che arriva dal Corriere, mentre le donne di Bucha, così racconta la stampa, in seconda pagina, dopo che ha aperto il titolo Bambini torturati, il racconto delle violenze durante l'occupazione russa facevano stendere gli uomini e simulavano esecuzioni, chiunque usciva veniva ucciso. Questa è una storia che riportano tutti i vari testimoni. Devo dire che testimoni raccolti da corrispondenti affidabili sono le vere prove dell'ignominia compiuta, perché non sono le foto satellitari, non sono quelle che possono essere tutte taroccate o spostate nelle date, ma ipotizzare che un intero paese si è messo d'accordo per creare una montatura mediatica, francamente questo va al di là del verosimile. Bucha diventa centrale per il conflitto, dice il Fatto Quotidiano. Certezze e dubbi su quella strage. Strage civile, l'Ucraina dà l'allarme anche per le altre cittadine, prepara indagine a tappeto. Scontro alle Nazioni Unite, di cui parleremo più avanti. Ricostruzione, sospetti sulle date del ritiro del russo, perché i russi affermano che quando lo sono tirati non c'erano niente di questi cadaveri. O a questo punto il New York Times presenta questo video satellitare paragonato con un video fatto a terra, che ci sarebbero questi corpi già con i russi presenti ancora in a Bucha. Comunque, cadaveri già in strada dall'11 marzo, racconta il Fatto Quotidiano. E sulle stragi interviene allora da Contropiano, giornale online, Sergio Cararo. I crimini di guerra, il dovere dell'informazione. E apre dicendo che non è la prima, ci auguriamo sempre che possa essere l'ultima, e chi opera dell'informazione si trova davanti agli orrori della guerra. Temiamo però di essere smentiti se la tendenza in corso non verrà seriamente invertita. Poi segna alcuni punti. I fatti non sono negabili da nessuno. Per le strade, le campagne di Bucha e di altre città ci sono cadaveri di persone uccise. Da questo fatto non si può ancora e ne si potrà prescindere. Molti di questi morti sono in abiti civili, alcuni con le mani legate, in un contesto di orrore come la guerra che arriva nelle città e non si combatte più tra eserciti asserragliati in trincee contrapposte sul fronte. In tutte le guerre della modernità muoiono più civili che militari. I fatti vengono strumentalizzati, sicuramente servono a creare quell'evento traumatico che abbatte le resistenze, le riluttanze, le equidistanze sulla base dell'indignazione morale e di persuasione mediatica assai meno morale, picchia come una clave contro le forze e le posizioni di chi a questa guerra si sta opponendo invece di arruolarsi. Esistono eventi simili che si sono rivelati manipolati da arte? Sì, e si citano appunto il scenario di Racak, quando viene presentata questa foto con un miliziano serbo con la testa ammazzata di un bosniaco, in realtà era esattamente l'opposto, il bosniaco con la testa invece era del miliziano, ma questo non cambiava chiaramente nulla. La NATO utilizzò questa fotografia per dare via libera a 75 giorni di bombardamenti su Belgrado, Kijeljak, Nisino Visade, Piancevo. i crimini contro i civili ancora di questa guerra si riveleranno più numerosi, esattamente come è avvenuto nelle città irachene e Rojava, suolo delle armate USA. E devo dire che, se vogliamo fare un paragone più concernente la Russia, beh, la guerra di bassa intensità si sta sempre più trasformando in una guerra alla siriana, alla Aleppo, e questo è un dato davvero terrificante, ma si è fatalmente da dire che è un inevitabile finire di una guerra, perché le guerre sono guerre, non hanno regole. E poi, su questi confronti tra ieri e oggi, interviene Alessandro Robecchi dal Fatto Quotidiano nella sua rubrica Piovono Pietre. Effetti collaterali, l'irrimediabile merda della guerra infetta ogni cosa. Qual è il ragionamento di Robecchi? Andiamo a leggerlo. Non c'è niente di intelligente da dire a proposito di un massacro, scriveva Kurt Vonnegut in Mattatoio numero 5, un capolavoro, direi che andrebbe riletto. Aveva ragione, niente pare doloroso e imprevedibile come un fiume di parole che insegue in questi giorni i poveri fantasmi di Bucha. Civili incidenti ammazzati con le mani legate, torturati o fucilati e lasciati lì. Un po' per monito, un po' per mettere un timbro sull'impunità di chi fa la guerra. E già ticchetta lo scino ping pong dei paragoni, un chiedersi attonico se Bucha valga mai lei, Vietnam, o l'Iraq, o Srebrenica, o Aleppo, perché una barbarie poi pare un po' meno barbara se la metti vicino alle altre barbarie, se in qualche modo l'archivi, come se storicizzare fosse un po' cauterizzare le ferite e alla fine farsene una ragione. E allora guardiamo anche il titolo di apertura del manifesto, che punta proprio dritto sulla scena del crimine, con la foto di un condominio distrutto dai bombardamenti a Borodianca, con una foto spero non costruita, con un orsetto di pezza che insomma è rimasto attaccato a uno degli spuntoni di un condominio distrutto. Dopo Bucha l'orrore si rinnova nelle zone a nord di Kiev riprese dagli ucraini, con Borodianca appunto che lamenta 200 corpi sotto le macerie, Amnesty International che conferma i massacri indiscriminati di civili commessi dai russi. Questo appunto ovviamente questa conferma che appunto arriva da Amnesty International da ulteriore corpo, ulteriore fiato naturalmente a un quadro generale che appunto vede Bucha come non un caso isolato. Abbiamo già raccolto, dice la segretaria generale di Amnesty Agnès Calamar, prove di attacchi indiscriminati contro la popolazione civile a Kharkiv, a Chernihiv e durante gli assedi di Kharkiv, Izium e Mariupol, annunciando la pubblicazione a breve di nuove testimonianze. E anche il Carlino oggi apre proprio su questo, e c'è chi dice che non è vero, orrori dei russi in Ucraina, il negazionismo, commenta il direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla, è un mostro antico. Quelli che abbuccia, chissà chi è stato. Questo appunto è il titolo del Carlino, mentre dalle pagine della Repubblica, anche qui reportage da Kadyrov, i ceceni di Kadyrov e le atrocità di un esercito poco motivato, il ruolo nelle violenze dei soldati di etnia non russa, rappresentano la maggioranza delle truppe, sono male addestrati e non sentono propria la guerra, quindi una scarsa adesione alla guerra, questo è un po' paradossale, appunto sarebbe alla base di queste atrocità, quelle che appunto inviato a Borodianca della Repubblica, Fabio Tonacci, descrive la tomba Borodianca, 200 ucraini sepolti sotto le loro case nella periferia liberata di Kiev, questa cittadina rasa al suolo dalle bombe. Anche qui i russi avrebbero nascosto dei cadaveri nel bosco fuori dal centro abitato, mentre a Irpin, anche qui intorno a Kiev, affiorano i corpi dei bimbi violentati e uccisi, vittime marchiate da svastiche e Z. Questo è il reportage che Repubblica oggi riporta in prima pagina. Ma anche nel raccapriccio, nell'orrore, nello shock emozionale, c'è sempre più che un pizzico di eurocentrismo, se non di razzismo. Primo perché appunto le truppe cattive erano sempre dall'Asia, sempre dalla Cecenia, non sono mai europei perché gli europei queste cose non le fanno, oppure sono dei poveracci perché le persone colte queste cose non le fanno. Ma anche sui profughi sappiamo come si fa la differenza tra i profughi di serie A e quelli di serie Z. serie A biondi con gli occhi azzurri, serie Z mori con i capelli ricci. Ma anche negli orrori c'è questo, perché per esempio c'è molto meno, è solo un trafiletto questo, a me sembra importante come buccia. Mali, circa 300 civili uccisi da eserciti mercenari. Leggo dal Domani, non trafiletto, ma solo dal Domani, altri giornali del Mali non gliene frega niente. In Mali le forze armate del paese, insieme ad una legione straniera identificata da diverse fonti come russa, avrebbero giustiziato sommariamente circa 300 civili in 5 giorni, dal 27 al 31 marzo, nel corso di un'operazione anti-jihadista nella città di Mura. Lo ha denunciato l'organizzazione internazionale non governativa Human Rights Watch, impegnata nella difesa dei diritti umani. Ha definito il massacro la peggiore atrocità registrata nel conflitto armato decennale del Mali. Il paese è in guerra dal 2012, quando, dopo la caduta di Libia di Muammar Gheddafi, un ampio gruppo di soldati tuareg maliani è tornato dalla Libia in patria, dando inizio ad un'offensiva contro il governo di Bamako per rivendicare la Zawa del nord-ovest del paese. Anche qui succede quel che è successo prima nell'Afghanistan e poi in Siria e poi adesso in Ucraina: si armano eserciti paramilitari che, finita una guerra da una parte, la esportano altrove. Ma torniamo a leggere. Ancora per il movimento dei Tuareg, che si chiama MLA, Movimento di Liberazione Nazionale, ha stretto un'alleanza con i narcotrafficanti jihadisti, che da allora si sono diffusi nel paese fino ad arrivare alla capitale e negli stati confinanti. La Russia ha iniziato ad affiancare il governo contro i jihadisti nel 2021 dopo il secondo colpo di stato militare. Questo succede in Africa. Ma torniamo invece nell'Europa, e allora armi dall'Ucraina, questo veniamo nei paesi sul fronte della guerra. I tank, cioè i carri armati, arrivano dalla Repubblica Ceca, è un dono, sai che invece sotto, invece di regalare una Barbie o un Big Joe, si regalano vecchi carri armati di epoca sovietica. Questo è quanto leggo dal Fatto Quotidiano. Mentre a sud torniamo a Mariupol, ieri i bollettini di guerra russa hanno detto che hanno impedito agli elicotteri con a bordo i capi militari degli ucraini di abbandonare la città, che se fosse confermato significherebbe che di fatto la battaglia di Mariupol è finita con la presa della città da parte dei russi, ma naturalmente è tutto da confermare perché i combattimenti sembrano continuare. Allora, bombe sulla via di fuga dal mare, Mariupol è oltre la catastrofe. Gli ucraini, il sindaco imposto da Mosca, prepara una messa in scena per accusare il battaglione Azov. Qui naturalmente ognuno mette le mani avanti su quell'altro, ma in una città in cui si contrapponevano il battaglione Azov e le battaglioni Kadyrov il ceceno, devo dire che la protezione civile è davvero messa in una trappola infernale. Il giallo e i dubbi sui marini di Kiev passati con i russi, perché ci sarebbero anche questa diserzione da un esercito a quell'altro. E per chiudere le notizie dalla guerra, perché io sono più che convinto che le guerre, quando scoppiano, è impossibile fermarle se non con delle trattative, lasciando sul campo feriti di conseguenze e ingiustizie, ma bisogna fermarle prima. E quindi proviamoci nella nostra flebile e disarmatissima voce radiofonica, e lo facciamo con Futuro d'Aprile del Domani, la seconda fase di AUKUS. Spostiamo lo zoom sull'estremo oriente. L'alleanza anticinese tra USA, UK, cioè Regno Unito, Australia, sui missili ipersonici, quelli che noi condanniamo quando la Russia le scaglia contro l'Ucraina, e invece c'è questa alleanza per armare di nuovo il mar della Cina. E a proposito poi di, come dire, di uno scenario che sicuramente va, come dire, va anche oltre il perimetro in cui ci si muove, vogliamo sottolineare appunto alcuni possibili ampliamenti che ad esempio Repubblica ci riporta in un suo reportage dalla Transnistria, che è un enclave dentro la Repubblica Moldava, di fatto appunto un piccolo satellite nell'orbita di Mosca. La Transnistria teme il diktat di Putin, in nome dell'URSS attaccate Odessa, è l'ultimo stato sovietico sebbene non riconosciuto, e questo appunto è il timore. Ma poi abbiamo, come dire, un quadro ancora più inquietante come scenario, è quello che disegna lo stratega geopolitico Parag Khanna, origini indiane, che vive a Singapore. Non più Est Europa, ormai è Nord Asia, la Russia marginata finirà in mani cinesi. E questo è appunto quello che uno scenario che si delinea e che peraltro trova fiato anche in alcune ovviamente variabili anche legate alle recenti elezioni in paesi come Ungheria e Serbia, perché leggo dal Carlino: la Serbia sempre più filo Putin, il focolaio dei Balcani torna a far paura. Il presidente serbo Vucic, così come Orbán in Ungheria, trionfa alle urne. Dalla Polonia al Kosovo cresce la paura per un nuovo conflitto etnico, appunto, nell'area balcanica. A dimostrazione come l'intervento NATO in Serbia abbia liberato, emancipato quelle persone felicissime di entrare nell'Occidente, vero? Ma a questo punto è il momento musicale, lo dedichiamo ai russi, perché mettiamo in onda un frammento del quarto movimento della sinfonia numero 60 in do maggiore, di Leningrad di Shostakovich, che è una sinfonia fatta quando Leningrado era assediata dai nazisti, e come Stalingrado, terribili sofferenze, e questo naturalmente forse chissà che non faccia riflettere qualcuno anche in quel grande consenso che sempre Putin abbia in casa sua. Leningrad Symphony, la sinfonia di Leningrado, quella che nella Leningrado affamata, assediata, distrutta, beh, gli assediati russi al tempo dell'occupazione nazista schiaffarono in faccia negli autoparlanti davanti all'esercito nazista tedesco, a dimostrazione che non cedevano. Ed naturalmente fu un elemento di incrocio tra musica e resistenza che ha fatto epoca. Ma torniamo all'epoca nostrana. Nessun aiuto può far vincere Kiev, la guerra, i conti che non tornano. Questo è Fabio Mini, che essendo un ex generale, quindi per il Fatto Quotidiano analizza le cose da un punto strettamente militare, fa l'analisi del campo. L'esercito di Putin è 4 volte quello di Zelensky. Solo intervento USA NATO può battere Mosca, ma l'Unione Europea tornerebbe all'età della pietra, perché sarebbe appunto la famosa guerra mondiale. E allora questo ci porta a un altro dibattito che più altro riprenderemo più avanti, ma adesso lo trattiamo così incipit, sulle armi che l'Italia, contravvenendo la nostra Costituzione, manda all'Ucraina. E interviene Michele Ainis, costituzionalista. L'invio di armi all'Ucraina è contrario alla Costituzione. Un processo Kiev, Russia e USA non riconoscono la Corte dell'Aia. Sì, perché la cosa paradossale è che mentre si invoca la Corte dell'Aia per Putin, chi la invoca, sia l'Ucraina che gli USA, non la riconoscono la Corte dell'Aia. Gli USA per i tanti crimini perpetrati in giro per il mondo, e l'Ucraina per i crimini perpetrati a suo tempo contro gli abitanti del Donbass. Quindi, come dire, è in questo gioco a chi la fa peggio. Detto questo, allora non si chiede il Tribunale dell'Aia, ma si crede una nuova Norimberga. Kiev chiede all'ONU, dopo l'intervento anche di Zelensky via video nell'Assemblea delle Nazioni Unite, Kiev chiede all'ONU una Norimberga per i russi invasori. I cinesi, ma anche gli indiani, sono stati cauti. E quindi è già un terzo del mondo che dice no, in questo, o rimanda un giorno del mai, questo è quanto. Ma allora la Norimberga, Zelensky, ed anche dal Corriere, una nuova Norimberga, l'ONU agisca o si sciolga. Naturalmente togliere la Russia dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU significa di fatto sciogliere l'ONU, perché se togli i maggiori contraenti, e questo è il vero dramma dell'ONU, che l'Assemblea non serve nulla, serve il Consiglio di Sicurezza, perché se servisse il deliberato dell'Assemblea Generale, per esempio Israele è stata condannata credo 400 volte, una cosa del genere, per l'occupazione dei territori palestinesi, ma c'è sempre il veto in quel caso americano, o in altra occasione arriva il veto di Cina e Russia. Quindi questo è anche l'immobilismo dell'ONU, ma se togli Cina, Russia, America dall'ONU, evidentemente non si torna a niente. Il presidente ucraino all'Assemblea delle Nazioni Unite chiede l'espulsione della Russia o una riforma. Il diritto di veto non può essere il diritto di uccidere. Questo è il quadro. Naturalmente vorremmo ricordare che poi Norimberga non a caso venne messa in atto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la sconfitta di Hitler, e si poté processare i gerarchi nazisti. Qui, ma dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, non all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Questo non è un particolare tutto indifferente, anche in termini pratici. Questo è quanto. Allora, queste sono le cose fantasmagoriche per riempire i giornali e la retorica, mentre altrettante retoriche sono quelle che il Fatto Quotidiano chiama russi espulsi e processo a Putin, la solita ammuina. Via 30 spie senza accuse, Zelensky parla all'ONU. Quando non sai cosa fare, mandi via dei diplomatici da un paese. Norimberga di carta. USA, Mosca e Kiev non riconoscono la Corte dell'Aia. L'Italia caccia gli 007 previo accordo. Questo è il quadro che poi naturalmente il Fatto Quotidiano riprende all'interno, perché a pagina 3, per processare Putin bisogna inventare un tribunale che non c'è. Né ONU né AIA appunto riconoscono questa vicenda. Questo, e poi è sull'espulsione dei diplomatici. L'Italia espelle 30 diplomatici russi, la Lega si smarca, serve il dialogo. Naturalmente la Lega si smarca perché con i rubli di Mosca ha molti affari in passato in corso, ma è ovvio che mandare dei diplomatici non aiuta certamente una possibile trattativa, questo a prescindere. E allora l'avviso di Draghi che rapporti con certi paesi lo faccia in trasparenza. Nell'audizione al COPPA si spiega che la guerra durerà. Questo è il premier italiano, che naturalmente è il più così in qualche modo conformato, diciamo gentili, al volere della Casa Bianca tra i paesi europei. Beh, il premier cita Russia e Cina, lo si dica per evitare speculazioni, e prevede che altri due mesi di rifornimento da Mosca lo stoccaggio basterebbe per superare il prossimo inverno, che ci porterà più avanti al gas. Sì, ma intanto segnalo un editoriale dalla Repubblica di Linda Laura Sabbadini, che parla dei profughi ucraini con un paradosso che francamente, insomma, non è stato messo molto in evidenza, perché ci sono cifre su questa crisi umanitaria gravissima: più di 7 milioni di profughi all'interno, 4 milioni e mezzo costretti a fuggire fuori dal paese, dall'Ucraina, ma un dato preoccupante, segnala appunto poi tra le pieghe di questo editoriale, è quello dei rifugiati ucraini in Russia, perché ci sono tanti profughi che sono andati in Russia. Sono tanti, sono più di 400.000, non si sa quanto siano stati forzati, neanche l'ONU, che l'ONU per quanto riguarda la sezione, diciamo l'organizzazione che si occupa di rifugiati, riesce a dirlo, ma la preoccupazione è d'obbligo, sono veramente tanti, e quanti diventeranno nei prossimi giorni? Che ne sarà di loro se non si troverà velocemente una pace giusta? E in effetti devo dire che appunto queste migliaia di persone sono ovviamente più schiacciate ancora di altre, se vogliamo. Ma la Repubblica parla appunto di questa Norimberga per Putin, chiesta da Zelensky in collegamento dall'ONU, e poi questa guerra di spie che trova oggi il titolo di apertura del giornale. Hanno ucciso il negoziato. L'Italia espelle 30 diplomatici russi, persone non gradite, sulla stessa linea anche l'Europa. Critica la Lega, così la trattativa si blocca e la pace si allontana. Coperture sospette e asse tra Draghi e Washington. Quindi guerra di spie, il filo diretto di Draghi con gli Stati Uniti, così l'Italia torna centrale nelle trattative. La lista dei diplomatici russi vistata con il capo dell'autorità per la sicurezza Franco Gabrielli è concordata con i partner europei, quindi appunto questa espulsione, mentre dalle pagine del manifesto la guerra diventa diplomatica, 30 dall'Italia ma sono 237 in tutta Europa. Di Maio giustifica la decisione presa per questioni di sicurezza nazionale, la reazione di Mosca è furiosa. L'ambasciatore russo a Roma parla di decisione immotivata che non rimarrà senza risposta da parte russa, che annuncia misure che saranno seguite da azioni reciproche da parte di Mosca. E questo appunto questo schema, che peraltro è stato come dire, la ripresa in uno schema abbondantemente usato anche in altre crisi, in altri momenti di crisi internazionale, pensiamo anche a quanto è stato fatto appunto in tempi anche recenti dagli Stati Uniti nei confronti della stessa Russia e di altri paesi, diciamo, poco cooperativi, poco collaboranti. E allora tu prima citavi il voto in Ungheria, che naturalmente ha premiato abbondantemente Orbán, Viktor Orbán, che alla messa appunto sul versante pace e guerra, assegnandosi a se stesso il titolare di pace e gli oppositori la guerra. Gli oppositori sconfitti sono fatti una lista unica, ammettono che non c'è stata gara, e questo è un momento molto difficile per l'opposizione democratica in Ungheria in questo momento. Allora l'Unione Europea contro l'Ungheria, fondi a rischio, dice il Corriere con Francesca Basso. Bruxelles va via la procedura per le violazioni del Stato di diritto, ed è curioso, perché se fosse stato invece come la Polonia con il riarmo e con la NATO, gli abbonavano tutti come hanno fatto già con la Polonia. Comunque il governo Orbán ci ha scelto il popolo. Proprio di popolo, vediamo quali sono gli effetti di questo isolamento della Russia su Vladimir Putin. Allora ce lo racconta dal Corriere Irene Soave in un sondaggio: ma in patria lo zar ha l'83% dei consensi e l'orgoglio russo, le ritorsioni inutili. Un sociologo indipendente, la propaganda funziona. Beh, insomma, però che sia la propaganda non c'è dubbio, che sia una democratura non c'è altrettanto dubbio, ma non è evidente che comunque se si votasse e se si vota vincerebbe Putin, quindi la differenza voto non voto ormai ha sempre più una linea d'ombra tra la realtà e la propaganda. Ma anche perché Putin ha un sostegno fortissimo nella chiesa revanchista medievalista della chiesa ortodossa di Kirill, questo fascista con la tiara. La sfida tra Kirill e il Papa: da che parte sta Dio? Si domanda Domenico Chirico. Il patriarca di Mosca benedice le bandiere e le truppe inviate al fronte. È un'antica tentazione che allontana dal vero cristianesimo. pensavamo fosse una guerra tra sanzioni, invece si è aggiunto la porta del fanatismo, perché Kirill anche ieri ha affermato che è una guerra di religione. Non so quali siano le regioni che dividano la popolazione ucraina a quella russa, perché c'è stato uno scisma, e chiaramente Kirill vede in questa guerra la possibilità di rimettere le mani sulla chiesa scismatica ucraina. È tutto lì il problema di un prendere di potere di questo personaggio che, come tanti altri, in qualche modo tradisce il primo comandamento e cita il nome di Dio assolutamente in vano, in maniera blasfema. Kirill benedice, ma bisognerebbe scegliere tra benedire e governare. Questo è Domenico Quirico. Ma sull'Ucraina, allora, sentiamo un aggiunto, un altro commento che arriva dalla vera solidarietà, quella che è quella tra i popoli, perché si conclusa Stop the War Now, questa missione pacifista e non violenta di decine di organizzazioni della società civile che sono recate a Leopoli. Noi abbiamo parlato con Federico Amico, consigliere regionale di Emilia Romagna Coraggiosa, che ha fatto parte di questo convoglio. Sentiamo le sue parole. È stata molto molto molto faticosa, per oltre 50-60 van e pulmini sono arrivati a Leopoli nella giornata di sabato. Questi erano carichi di circa 20 tonnellate di beni di prima necessità, quindi alimentari, medicinali, eccetera, che abbiamo scaricato e consegnato ai vari centri di raccolta. Sono beni che poi vengono inviati nelle zone di conflitto oppure vengono impiegati per coloro che sono raccolti come profughi proprio lì a Leopoli, perché la città di Leopoli, che è tutto sommato integra, non ha subito bombardamenti o altro, è il punto d'arrivo di tutte quante gli invii di beni che si stanno organizzando in queste settimane. Quindi questa è stata la prima parte della missione, positiva, tutto bene. E la parte più complicata è stata quella di rientro che è avvenuto anche caricando sui vari mezzi circa 200 che abbiamo poi portato in Italia per l'accoglienza. 200 persone, tra queste c'erano anche 50 minori disabili, ma c'erano anche persone che fuggivano da Mariupol, persone che fuggivano dalle zone più colpite dal conflitto. La carovana, insomma, ha funzionato, e devo dire che è stato anche un momento importante, quello per il quale con tutti quanti gli attivisti e volontari siamo andati nel centro di Leopoli, sia a vedere le condizioni delle persone che arrivano in stazione a Leopoli. La stazione di Leopoli vede transitare circa 60.000 persone al giorno che fuggono dalle zone di guerra, e da lì siamo partiti con una piccola marcia, diciamo così, pacifista per manifestare per la città di Leopoli. Quali sono state le principali criticità che avete trovato? Sicuramente al ritorno alla frontiera noi abbiamo ospitato con lo spezzone di Mediterraneo una persona che ha sia la cittadinanza italiana che la cittadinanza ucraina, a 58 anni. Voi sapete che in questo momento vige la legge marziale in Ucraina, e quindi tutte le persone tra i 18 e i 60 anni sono coscritte, quindi sono obbligate a prestare servizio militare. Questa persona, che però vive in Italia da 30 anni, ha i figli in Italia, eccetera, le autorità ucraine non volevano fargli attraversare la frontiera, lo consideravano quasi un disertore. Sostanzialmente c'è stata una trattativa, grazie anche non solo ai volontari nostri, ma che hanno coinvolto l'ambasciata italiana in Ucraina, che hanno coinvolto l'ambasciatore ucraino in Italia, che alla fine, nella giornata di ieri, quindi con 24 ore di trattativa, hanno sbloccato la situazione e hanno fatto sì che Volodymyr, che era il nostro compagno di viaggio, potesse finalmente arrivare in Europa. Questa è, diciamo così, è stata la criticità maggiore. L'altra criticità è quella chiaramente del gran numero di persone, nel senso che le persone che sarebbero volute partire con noi erano ben più di quelle che potevamo trasportare, quindi l'altra criticità è stata quella di organizzare il trasporto. È ovvio che è importante avere delle figure di riferimento in loco, quindi le ONG che si sono attivate avevano anche dei referenti locali che ci hanno aiutati a determinare chi potesse partire, come potesse partire, eccetera. Qual è l'umore, il sentire della popolazione locale rispetto a questa guerra? Allora, i cittadini di Leopoli generalmente erano piuttosto tranquilli, anche se durante il giorno più volte capita che suoni l'allarme che invita tutti a rifugiarsi nei posti sicuri. L'umore chiaramente di coloro che sono scappati è di tutt'altro tenore. Insomma, in stazione abbiamo visto persone veramente stravolte, veramente provate. Alcune delle persone che abbiamo trasportato in Italia, che venivano da Mariupol, ci hanno messo 15 giorni per arrivare a Leopoli, perché sono fuggite prima a piedi e poi con mezzi di fortuna e poi con pullman e poi con treni. Insomma, è una situazione veramente difficile e complicata, dove però appunto è stato molto apprezzato l'intervento nostro, il trasporto dei beni e delle persone in uscita. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. E veniamo alla diplomazia, quella delle sanzioni e delle contraccolpi economici. Carbone scambi sul tavolo dell'Unione Europea, nuove sanzioni per 20 miliardi. La discussione sulle nuove misure, Draghi appoggio pieno dell'Italia, finanze politiche, oggi altre mosse dagli Stati Uniti d'America, Putin potremo ridurre l'export di cibo ai paesi ostili. Questo è il titolo che dà il Corriere della Sera a questa vicenda. Mentre stop al carbone da Mosca, queste le sanzioni le descritte da Virginia Della Sala, ma vale 4 miliardi su 100. Il buffetto, così lo definisce questa sanzione, vodka, chip and company, taglio le 10 miliardi dell'importo russo, per metà arriva dal fossile per le centrali, cioè il carbone. Berlino and company possono rimpiazzarlo facilmente. E dopo? Cioè, qual è il prossimo livello, il prossimo step delle sanzioni? Toccherà il petrolio, che pesa molto di più. E naturalmente quello che poi chiede sempre anche Zelensky è lo stop del gas. Ma c'è una clamorosa contraddizione in questa vicenda che mette a fronte, a confronto la guerra, i valori, lo scempio delle vite e il business. Perché le vie del metano, cioè del gas che passa, che arriva dalla Russia, il paradosso ucraino, il gas della Russia passa ancora da qui. Quindi se Zelensky volesse chiudere i rubinetti del gas, potrebbe farlo tranquillamente, perché passa dall'Ucraina. Però non lo fa, perché evidentemente si inimicherebbe tutta l'Unione Europea, perderebbe un sacco di introiti necessari anche per la sua guerra. Insomma, alla fine c'è un minimo comune denominatore nei vari combattenti. Ma torniamo alla Russia. Putin sfoda l'allarme del cibo, pronte a fermare l'export per i paesi che ci sono ostili. Noi come sempre sottolineiamo che questo rincaro dei prezzi agricoli, dei fertilizzanti, se mette in difficoltà chiaramente l'Europa occidentale, mette più che in ginocchio i paesi dell'Africa, che con rialzo dei prezzi non potranno più acquistare queste cose, e si prevede una grande carestia con le conseguenze morti di fame, migrazione, insomma tutti i cavalieri dell'apocalisse che si concentrano in queste mosse contro mosse. Allora leggiamo che Mosca e l'Ucraina sono tra i primi fornitori di grano e mais al mondo, ma il Cremlino non può fare a meno dell'Occidente, si sospetta un bluff. Però ho capito che giocare a poker su queste cose, se l'altro non bluffa, è un bel problema. Mentre Pechino e Mosca spaventano l'Unione Europea, il 65% teme l'imperialismo cinese, la democrazia oggi è fragile. Un sondaggio completato in Senato da Letta con Meloni, perché ormai Letta del PD e la Meloni di Forza Italia vanno a braccetto. Questo è quanto. Si teme l'imperialismo cinese, che peraltro si presenta con sicuramente meno bombe e più commercio, che dovendo scegliere tra bombe e commercio, insomma, vedete voi. Ma il prezzo dell'embargo, rimaniamo al commercio, l'alta al carbone che i russi vendono all'Europa vale 4 miliardi, in totale le sostanziazioni costano già quasi 10 miliardi. Poi c'è il blocco ai porti, non peserà, perché hanno bloccato i porti anche le navi russe, ma già è ridotto il commercio. E poi c'è notoriamente l'incognita dei prezzi per l'inverno, quando lo stoccaggio con la bella stagione sarà finito, dove lo troviamo il gas che non arriva dalla Russia? Ma attenzione, perché anche quando Putin blocca l'export di cibo, certo non si parla di caviale e vodka, cioè nel senso, o di insalata russa, ma si parla invece del grano, dei cereali, perché la Russia è il primo esportatore mondiale di grano, l'Ucraina è al quinto posto, quindi parliamo di questo, nel senso che il cibo è quello che diventerà che diventerà cibo, quindi un tema che non è niente affatto secondario. Sanzioni sull'energia, si diceva, anche la Repubblica osserva che per ora l'Europa però si limita solo al carbone. Nel nuovo pacchetto, oltre al blocco di porti e tir, anche il combustibile, mentre gli Stati Uniti bloccati i pagamenti in dollari da banche estere. Gli Stati Uniti provano a spingere Mosca verso il default, così Putin dovrà intaccare le sue riserve. Questo è appunto quello che ci riporta Repubblica. Poi naturalmente sull'energia ovviamente c'è naturalmente un quadro più generale, perché insomma ovviamente vedremo, insomma c'è questo allarme del direttore generale dell'ONU Gutierrez, dopo l'allarme degli scienziati sulla crisi climatica, investire nei fossili è una follia, ma naturalmente questo si inserisce appunto in questo quadro così complesso, e con questo accordo appunto di minima in Europa, che al momento riguarda solo il carbone. E a proposito di quello che viaggia, dei prodotti da viaggio, ci sono appunto le armi, e naturalmente le armi fanno molto discutere, in particolare le armi a Kiev, perché ci sono questi sondaggi che vengono realizzati nel nostro paese. Ad esempio la ricerca ISPI di Repubblica: armi a Kiev, italiani divisi, ma 9 su 10 taglierebbero i consumi energetici. Per il 70% degli italiani la paura più grande è il rischio di un conflitto nucleare. Oltre il 60% considera Putin responsabile, ma non vuole un intervento della NATO. Devo dire che questi sondaggi, insomma, vengono poi variamente interpretati, perché leggo una ricerca SVG invece dal Carlino: gli italiani contro l'invio di armi. Bocciato anche Draghi perché troppo filo americano. Tra i leader in testa il pacifista Conte, seguito da Letta. Prevale lo scetticismo sui negoziati, ma c'è contrarietà netta per un impegno diretto, mentre c'è il sì a sanzioni più pesanti per Mosca. Devo dire che questo risultato, appunto, che vede Conte in testa, seguito da Letta, poi viene malignamente affiancato nella pagina appunto di rimpettaia del Carlino da questo viaggio nei circoli del PD. Base PD fredda sulla linea atlantista di Letta. Caro Enrico, stai sbagliando. Molti distinguo sul conflitto e sull'invio di armi. Nelle case del popolo i militanti sono spaesati e tornano toni e slogan anti-americani. Sì, e allora sempre sul terreno e con sanzioni e contraccolpi andiamo al verso le 24 ore. Perché naturalmente in questi giorni sono molto sfumate, sono sparite tutti gli articoli sulle sofferenze sociali in Italia, perché è difficile contare gli italiani che, mentre scuola, istruzione, scuola, salute, mobilità e quant'altro vengono tagliati, si spende in armi. Allora meglio non far sapere al cittadino, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il Sole 24 Ore invece vede da un taglio molto più di finanza e di economia, e da questa notizia: rincari di energia e materie prime nel PNR, già 3 miliardi di costi in più. Le stime sul totale delle infrastrutture, i cantieri aperti mancano 500 milioni. E qui naturalmente l'erario pubblico sembra il posto di San Patrizio, non si capisce bene dove si vanno a pescare questi soldi, anche perché Draghi continua a dire no a un discostamento di bilancio, quindi se non scosti il bilancio prelevi dalle spese sociali, non è che ci sono molte altre alternative. Buia dell'ANCE, l'Azione Nazionale Costruttori, risposte ore per intero settore aggravi di costi totali a 10 miliardi. Mentre si parla di gas e del ritardo dell'Italia sulle energie rinnovabili, un paese come il nostro che sarebbe in teoria benedetto dal Dio per tutte le forme rinnovabili tra vento, sole, mare e quant'altro, leggiamo: rinnovabili, piani bloccati valgono 4 volte i consumi. Quindi vedete come sarebbe in qualche modo un problema in meno tra i tanti sullo shock energetico. Dunque, i progetti per costruire nuove centrali elettriche alimentate da sole e vento vanno verso i 200.000 megawatt complessivi di potenza, concentrati soprattutto nel mezzogiorno. Si tratta di un livello che corrisponde a 4 volte gli attuali consumi in Italia, 4 volte. La situazione è a doppio senso: molti progetti sono in lista d'attesa a causa della paralisi delle autorizzazioni, ma alcune amministrazioni sono paralizzate dalla valanga di piani, spesso richieste fotocopie presentate uguali in 3, 4, 5 luoghi diversi. Questo è, e qualcuno dice che dobbiamo costruire centrali nucleari. e magari togliendo soldi dalle centrali dei soldi rinnovabili. Poi c'è questo tema che solo dal Sole 24 Ore. PD e 5 Stelle riuniti dalla richiesta di deficit, c'è di scostamento del bilancio, ma nuova lite sull'IVA per le armi. Perché la cosa curiosa è che per le armi hanno tolto l'IVA, per il pane no, ma per le armi non si paga l'IVA. Tensione tra i partiti, Letta e Misiani rompono il tabù, serve uno scostamento, evitiamo nuova recessione. Una volta il PD fino a qualche giorno tempo fa era contrarissimo a nuovi scostamenti. Ma vengo allora appunto alla pagina dell'economia del Corriere della Sera. Allarme Mineracqua, che è la Confindustria delle acque minerali, costi di produzione insostenibili. Il vicepresidente Fortuna: bisogna agire una logica di filiera sulle acque in bottiglia, IVA tra le più alte d'Europa. Quindi l'IVA continua a essere protagonista. E allora, dice la notizia, sponda 5 Stelle: IVA sul pane ma non sui missili, l'ultimo regalo alle lobby armate. Sì, l'IVA grande, grande protagonista, quindi naturalmente anche ovviamente fluttuando nel quadro che purtroppo stiamo descrivendo anche questa mattina. Nelle pagine economiche della Repubblica invece abbiamo anche qui appunto lo scostamento del DEF in arrivo, appunto sulle cifre resta la distanza tra governo e partiti. Invece, per non perdere l'aggancio tra Italia e Russia, il Manifesto ci regala questo dato: carceri europee, il rapporto annuale del Consiglio d'Europa pubblicato ieri, Russia al top dei detenuti, l'Italia invece tra i paesi con più sovraffollamento e suicidi. Quindi a braccetto Italia e Russia, purtroppo in queste statistiche davvero mortificanti. Anche se nel corso del 2020, a causa delle misure anti-Covid, il numero di reati reclusi è diminuito, ma insomma un ulteriore coccarda, direi poco lusinghiera, da mettersi. Invece sul tema del riarmo c'è un'intervista del Manifesto all'ex presidente della Toscana Enrico Rossi, che dice: sul riarmo il PD rinnega Moro e Berlinguer, un errore etico e politico, l'unica arma per piegare Putin è lo stop all'acquisto di gas e petrolio, dobbiamo prepararci ai sacrifici. È il commento di Pancio Pardi: aiutiamo l'Ucraina rinunciando a un beneficio con l'embargo del gas. E allora, per chiudere con gli affari, sappiamo che la Repubblica di Molinari, tra i giornali più attenti al nuovo maccartismo, a cercare filo putiniani dappertutto, chiunque non sia d'accordo al 100% con Draghi, però il Fatto Quotidiano ricorda qualche peccatuccio. Inserto di Repubblica: la Russia è pluralista, allegato pagato dal Cremlino. Siamo dal 2010 al 2016, quindi ben oltre il 2014, quando ci fu le sanzioni contro la Russia per l'invasione della Georgia. La Repubblica russa degli spot per Putin, il quotidiano comandato da Scalfari, Russia Oggi, il culto del capo nei supplementi, lo zar che usa l'utilitaria Lada, Kalina è il nome del nostro nuovo cane da scegliere con un concorso. Ci fu fece anche questa la Repubblica: siete il nome del cane di Putin. Russia Oggi il 6 dicembre scriveva: l'uomo Putin che ha restituito al paese stabilità sociale e rilanciato l'economia. Ecco, questi peccatucci adesso appunto vengono messi un po' da parte a caccia di qualche orsini in qualche talk televisivo. Detto questo, ultimo stacco musicale dedicato alla guerra, Machine Gun Jimi Hendrix. questo Jimi Hendrix live, quindi una pessima registrazione in questo blues brutale che appunto parla della macchina da guerra, delle dei fucili, delle armi. Ma cominciamo dalle putinate e dalle salvinate, perché il Corriere dice quelli che non citano più Putin, tra cui dice Salvini, che Salvini è problematico perché adesso nei sondaggi è sotto anche l'ultimo risultato delle ultime politiche, è sceso dal 34% quando il capitano andava per la maggiore, adesso è un po' in difficoltà. Finiremo al 10%, i leghisti del nord si lurano Salvini, gli attivisti accusano i leader di aver distrutto il partito, i commissari locali stanno facendo disastri, sono ragazzotti senza arte né parte. E allora, non potendo parlare di Putin o quant'altro, altro, DF e Fisco a fondo di Salvini caccia le risorse per i sostegni, la maggioranza più aiuti, ma il tesoro margini stretti, le tasse pesano per il 51,7%, dice questa volta il Corriere. Ma in tutto questo c'è un'inflazione galoppante come non si vedeva dal 91, si dice, e non c'è nessun contratto che aumenti i salari dei lavoratori, e quindi sempre più eroso il potere d'acquisto delle classi lavoratrici medesime. Emanuele Felice, economista dal Domani, devo dire che oggi meritoriamente dice una cosa che nessun altro ha la faccia di dire: aumentare il reddito e i salari nonostante l'inflazione, ma proprio per l'inflazione, anche perché, oppure una proposta così di Radio Fujiko, ripristiniamo la scala mobile, che quando aumenta l'inflazione aumentano anche i salari automaticamente. Potrebbe essere una soluzione, ma non credo che abbia molto appeal in caso di Draghi, neanche del PD o di Italia Viva. In tutta questa drammaticità che abbiamo letto fino adesso, abbiamo quelli che invece pensano alle cose importanti. Parliamo di Bucci, che è come sindaco di Genova, e vediamo Bucci, detta le regole pure sui Bermuda, dei tassisti, ok, ma che sia un'entità unita. Questo è importante perché quest'estate, se vediamo un taxista a Genova con i bermudi a fiori, ci sentiamo un po' turbati, più che le immagini di Buccia. Beh, un tocco di stile non guasta mai. A proposito di stile, segnalo dall'Economia della Repubblica, che si ricorda oggi del tema lavoro, lavoro ispettori senza indennità. In stato di agitazione oltre 4.000 dipendenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro esclusi dagli aumenti, mentre infortuni e decessi non si fermano. Ecco, poi già erano pochi gli ispettori del lavoro e anche peraltro con diciamo trattamenti retributivi discutibili. A proposito di cifre, balzo del canone del Telepass da luglio più 7 euro. Ecco, quindi invece ci sono dei movimenti in alcuni settori. Ancora a proposito del lavoro, a Napoli attesa oggi la sentenza del processo all'Eternit di Bagnoli per la morte di 8 persone e 6 operai, con la multinazionale elvetica alla sbarra, chiesti 23 anni per i vertici. A proposito, il nostro podcast finale appunto sarà proprio sulle multinazionali, anche se in salsa italica. Mentre abbiamo ancora L'Aquila, 13 anni dopo, la città sospesa torna in piazza. Dopo il lockdown una fiaccolata per non dimenticare le 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009, cioè l'anniversario del appunto del terremoto dell'Aquila, 13 anni fa. C'è questo servizio appunto del Manifesto che ci ricorda che il dolore all'Aquila è ancora un fiume in piena che non accenna ad esaurirsi. E poi c'è l'andamento dell'epidemia, perché il giornale segnala boom di Covid post ricovero, ora gli ospedali vanno in tilt, uno su cinque è scoperto positivo dopo l'ingresso. Per i medici è difficile isolare tutti, anche perché c'è una nuova variante, ce ne parla oggi anche ce ne parlano varie pagine locali, ad esempio quella della Repubblica, e sembra che appunto sia la stessa variante che fa scrivere al Manifesto oggi in una pagina: Shanghai in lockdown, disagi e proteste per le restrizioni. Shanghai, ricordo che è una città di milioni di abitanti, è stata chiusa. Il governo cinese ha registrato ieri 17.000 nuove infezioni da Covid e quindi ha deciso appunto di continuare la politica zero Covid, chiudendo, appunto, mettendo in lockdown la megalopoli, la grande megalopoli cinese. Sì, si fa il callo a tutti, perché due anni fa, quando imparammo che Wuhan, 3 milioni di persone, era in lockdown generale, rimanemmo tutti scioccati. Adesso 25 milioni di persone in lockdown, dice tutti a Shanghai lockdown, la crista cinese tira il freno e non facciamo una piega. Ci sembra, sì, la solita notizia. Insomma, siamo pronti a tutto. Ma dalla pagina allora del virus andiamo a prendere anche altri servizi. Per esempio, Remuzzi, direttore delle ricerche dell'Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano, che dice: solo la terza dose ci protegge da Omicron e da altre varianti, curva in calo da metà aprile. I contagi sono stabili, in 7 regioni salgono invece i ricoveri. Allora la Caruso, poi invece, interpellato quest'altro immunologo dal Fatto Quotidiano, XE, il famoso XE, questa variante, qui non è ancora arrivata, contagi stabili ma 194 morti, qui non morti sempre davvero tanti, anche se questo è un po' come Shanghai, non ci guardiamo neanche più. Quello che invece guardiamo, stipendi, azioni, il biennio d'oro dei signori dei vaccini, i conti in tasca, lo fa Nicola Borsi, sempre dal Fatto Quotidiano. L'analisi rivela dal Financial Times: 107 milioni i capi di Pfizer, BioNTech e Moderna, mentre i loro titoli sono saliti di valore per miliardi grazie alle stock option. Bansal ha patrimonio di 5,4 miliardi, Saindi 7,8, finora hanno venduto quote per oltre 400 milioni. Questo è non tutto il male viene per nuocere, dicono le grandi di Big Pharma parlando del virus. In ultimo, prima di chiudere, omicidio Cucchi, parliamo l'ora della verità per il caso dei depistaggi, 8 ufficiali dell'arma accusati di aver coperto i colleghi, domani la sentenza. Questo la che arriva, due carabinieri, ricordate, 12 anni, sono costituiti e ora sono in carcere. Mentre sulla vicenda Cucchi interviene una persona benissimo informata dei fatti, ovvero sia l'avvocato che ha seguito la vicenda di legale, che dice non ha vinto solo la famiglia di Cucchi, ha vinto lo Stato. Questo è perché appunto si è posizionato un po' di legittimità, di legalità, come dicono in tanti. Questo è quanto. E poi c'è sempre qualcuno, la Francia ci dimostra che c'è sempre qualcuno più a destra della destra, perché ovviamente si guarda le presidenziali francesi e c'è la rimonta di Marine Le Pen. Domenica, ricordiamo, partono le presidenziali, la leader della destra va verso il ballottaggio. E chi ringrazia? Ringrazia Zemmour. Grazie a Zemmour ora sembro di centro. Quindi la Le Pen dice: beh, insomma, mi posso giocare le mie carte perché c'è qualcuno più a destra di me. Nei sondaggi ha guadagnato 4 punti, ha mandato al macero i volantini con Putin, quindi si è data una ripulita, un po' come la Lega. La Francia scontenta la prova voto, questo è il Carlino. Macron rischia contro la Le Pen. Ancora due notizie prima di chiudere. La prima è quella: operaio muore investito sulla 14, notizie che ero questa mattina in redazione. 38 anni, è morto, può essere stato investito da un mezzo pesante dalla A1 Bologna-Taranto, dove stava lavorando. L'incidente è avvenuto nella notte tra San Severo e Foggia in direzione Bari. Appunto, di morti sul lavoro non ne parla più nessuno, ma invece la gente continua a perdere la vita per portarsi a casa uno stipendio, un salario. E beh, abbiamo parlato della chiesa di Kirill fascista, beh, ci sono anche altri fascisti anche di casa nostra, no, altri. Polemiche sul battesimo fascista. Auguroni, piccole balilla, e lo striscione con cui vengono salutati fuori dalla chiesa di Cassina Nuova, frazione di Bollate nel Milanese, due bimbe appena battezzate. Una ventina di ragazzi vestiti di nero, ha acceso anche fumogeni, i piccoli sono spaventati, ha detto un testimone. Il caso è stato denunciato dal social dal Sentinelle di Milano, uno striscione dal vago sapore fascista, auguroni, piccola balilla, beh, insomma, tanto, ironizzando. E il sindaco ha convocato le famiglie chiedendo spiegazioni. Adesso a questo punto andiamo col commento, il podcast. Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Ah, signora mia, il commento del giorno, un podcast di Radio Città Fuscico. La leggenda, peraltro comprovata da nugoli di testimoni, vuole che nella mattinata del venerdì, prima di iniziare il weekend, Michele Ferrero, fondatore del grande impero dolciario, per anni unica vera multinazionale italiana, riunisse nella sede di Alba, in Piemonte, tutto il suo management di vertice attorno a un tavolo. per assaggiare una serie di prodotti presi a campione dalla variegata produzione e verificarne la qualità. Quasi a tenere vive le radici di quel successo globale piovuto grazie alla pasta spalmabile di cioccolato e nocciole, partita dal laboratorio che il padre aveva deciso di aprire alla fine della Seconda Guerra Mondiale. I tempi sono cambiati, nonostante Ferrero abbia creato anche delle imprese sociali per creare posti di lavoro tutelati nei paesi emergenti e siano noti gli incentivi e i vantaggi che i lavoratori hanno nella fabbrica originaria. Quel controllo probabilmente oggi è diverso se pensiamo al forzato ritiro di ovetti Kinder dal mercato inglese e irlandese per un potenziale collegamento con un focolaio di salmonella. La notizia ha portato la Ferrero a disporre l'amaro ritiro a scopo precauzionale. Gli ovetti interessati sono stati realizzati nello stabilimento di Arlon in Belgio e sono almeno 57 i casi di salmonella segnalati e riconducibili ai prodotti Kinder, tra cui un certo numero di bambini. Il richiamo riguarda le uova Kinder Surprise singole e multipack, dolcetto popolare commercializzato per i bambini che contiene piccoli giocattoli da collezione all'interno di un guscio di cioccolato. Un richiamo arrivato proprio mentre le marche di dolciumi si contendono lo spazio sugli scaffali dei supermercati in vista della Pasqua, che in Gran Bretagna, come in tanti altri posti, viene celebrata acquistando in maniera massiccia uova di cioccolato. Qualche segno di cambiamento, a dire il vero, lo si era notato anche da altri piccoli particolari. La Ferrero, per anni additata come fulgido esempio di virtuosa impresa a conduzione familiare, capace di conquistare il mondo, ha contratti di produzione principalmente in Costa d'Avorio, Ghana ed Ecuador per avere un flusso costante di cacao e in Turchia, principale esportatrice di nocciole nel mondo. Oltre a filiali produttive di logistica in 27 paesi europei, comprese Svizzera e Russia, la presenza in Cina e India, le nuove fabbriche negli Stati Uniti. Una multinazionale dal fatturato di 12 miliardi annui, l'85% del quale proviene dalle esportazioni, che controlla il 30% del commercio di nocciole nel mondo e determina pesantemente i prezzi di acquisto delle stesse. Un peso che ha schiacciato i produttori locali nel mondo e inquinato il processo produttivo, nonostante le rassicurazioni sempre fornite dalla Ferrero sul proprio atteggiamento da impresa etica. In Turchia, per fare un esempio, un rapporto di Anti-Slavery International denuncia ancora lo sfruttamento del lavoro minorile e di condizioni di lavoro degradanti per i lavoratori che sono in buona parte rifugiati siriani. Ma anche l'industria del cacao, altro elemento fondamentale per la Nutella, in Ghana e Costa d'Avorio è sotto accusa per la presenza di oltre 2 milioni di bambini nel processo produttivo. Per non parlare poi delle questioni ambientali, anche in Italia, dove interi territori, dal Piemonte alla Toscana, sono stati segnati dal pesante impatto della monocultura imposta dall'azienda per mantenere il costante flusso di risorse da cui dipende a spese dell'ecosistema complessivo. D'altra parte, che qualcosa di profondo fosse ormai cambiato anche nella piemontesissima Ferrero, oggi guidata dal giovane Giovanni, nipote del fondatore, lo si poteva dedurre facilmente guardando dove è stata collocata la sede dell'azienda. Non più in quella Alba da dove è partito tutto, ma da quel paradiso fiscale posto nel cuore dell'Europa, che è il Granducato di Lussemburgo, piccolo paese fra i fondatori dell'Unione Europea con politiche fiscali che risucchiano ricchezza dal resto d'Europa. Una città-stato in un territorio più piccolo della Valle d'Aosta, dove sono registrati 55.000 realtà offshore costituite solo per detenere quote di altre società. Com'è lontana Alba. Ah, signora mia, il commento del giorno, un podcast di Radio Città Fuscicola.